Linee d'ombra di Matteo Caccia. Non è riuscito perché lei all'ultimo momento non ha avuto il coraggio di abbandonare i suoi figli e andare a vivere con lui. Bigio ci confidò che gli piaceva Lidia. Lei disse che mai si sarebbe messa con lui, ma Bigio, in quanto a testardaggine, non era secondo a nessuno. Storie di grandi amori e di fidanzati che spariscono in una puntata che si intitola Il numero perfetto. Occorre un tempo straordinariamente breve per ritirarsi dal mondo. Ho viaggiato fino ad arrivare ad una vita tutta mia. Quello che ci fa diventare come siamo è inafferrabile. Va oltre il nostro sapere. Ci abbandoniamo all'amore perché ci dà un qualche senso di ciò che è inconoscibile. Nient'altro conta. Non alla fine. L'ho rivista solo una volta. È stato per caso. In un aeroporto mentre cambiavo aereo. Lei non mi ha visto. Stava con Peter. Aveva in braccio un bambino. Non era diversa da tutte le altre. È il finale di un film meraviglioso, è Il Danno, il film da cui abbiamo tratto questa clip, con cui apriamo questa puntata di Linee d'ombra che si chiama Il numero perfetto. Il Danno è un film veramente meraviglioso di Louis Malle. I protagonisti sono Jeremy Irons e una splendida Juliette Binoche, molto molto giovane, molto molto conturbante. È un film dei primi anni 90, 1992 se non ricordo male, in cui Jeremy Irons è un politico di grande statura e il figlio un giorno arriva a casa con una nuova fidanzata. Il figlio è una persona di 30 anni, più o meno 25-30 anni, e tra questa nuova fidanzata, che è Juliette Binoche, e lui e Jeremy Irons, cioè il padre del ragazzo, nasce un amore che causerà una enorme tragedia. Questo è solo la parte finale del film, quando appunto Jeremy Irons si ritrova da solo e ripensa a lei. Abbiamo aperto questa puntata con questo pezzo di film, tra l'altro, se non l'avete visto, come dico praticamente sempre se citiamo un film, guardatelo, è un film veramente bellissimo. Vi dicevo, abbiamo cominciato così questa puntata perché abbiamo deciso di raccontare storie che hanno a che fare con amori in cui non si è da soli quando si è in coppia, ma c'è sempre un terzo incomodo, che lo si sappia o che non lo si sappia. Il motivo per cui l'abbiamo intitolata Il numero perfetto, proprio perché si dice che il numero perfetto sia il 3, e quindi racconteremo storie di un amore mai veramente consumato perché nel mezzo c'era sempre qualcun altro, e poi invece una storia che sembra un thriller, un vero e proprio thriller, un amore a distanza che poi finalmente si riunisce, e proprio quando si riunisce ed è dall'altra parte del mondo, il fidanzato di fatto scompare. L'ho raccontato una giornalista, un'autrice italiana per Narratively, che è uno dei siti di storie che più frequentiamo per proporvi le nostre storie quotidianamente qui a Radio 24. Lo facciamo, ormai lo dico da 2 settimane, tutti i giorni. Continuiamo a farlo, crediamo che abbia senso continuare a farlo, anche e proprio e soprattutto in un momento come questo. Tra l'altro ne riflettevo ieri, non mi ricordo più con chi, il titolo di questo programma, che è Linee d'ombra, le storie che abbiamo cominciato a raccontare praticamente da un mese, storie che hanno a che fare con un confine, con un passaggio, con una linea di demarcazione che nella nostra vita abbiamo prima o poi passato, episodi legati a quel passaggio, rappresenta forse oggi come non mai la situazione che stiamo vivendo. Noi siamo davvero lungo una linea d'ombra che sta durando da quasi un mese ormai e che durerà ancora non sappiamo per quanto. Siamo sicuri che ne usciremo, prima o poi, speriamo più prima che poi, ma di fatto questa è una fase, ognuno dice la sua, no? I sociologi dicono la loro, filosofi, psicologi e poi ovviamente i virologi e gli esperti in generale di medicina su come saremo quando avremo finito. Le storie non insegnano molto, le storie semplicemente dicono delle cose, però una cosa la dicono, è che ci vuole del tempo tra l'avvenimento e il racconto per poterlo guardare da fuori, e quindi credo credo che ci vorrà del tempo, molto tempo e molta distanza per guardare questa linea d'ombra in cui ci troviamo e capire che cosa ne è di noi in questa fase di passaggio e chi saremo quando ne saremo usciti. Va bene, dopo il pippotto sulla linea d'ombra possiamo cominciare a raccontare le nostre storie, che è la cosa che ci interessa fare. Quindi la prima storia è la storia di Francesco, si intitola Bigio e Lidia, in una puntata invece che si intitola Il numero perfetto. Benvenuti a Linea d'ombra. Il nostro era un gruppo di ragazzini, tutti di quella viuzza che si irradiava da via Solferino. Vi abitava anche Bigio e la sua famiglia. La famiglia di Bigio era una famiglia di contadini di una cascina sulla strada verso Milano. Dopo che erano stati mandati via a San Martino, come spesso accadeva con la famiglia, avevano preso in affitto una cascinetta in quella via stretta dove anche io abitavo. Avevano un campicello, un asino e un carretto a due ruote. Bastava sì e no a sfamare una o due persone delle nove che componevano la famiglia. I genitori, cinque figli maschi e due femmine. Poi c'erano i lavori saltuari e gli espedienti. Correva voce che qualcuno dei ragazzi non avesse ben chiara la distinzione fra le cose proprie e le cose altrui. Sì, insomma, si diceva che fosse un po' lesto di mano. La loro non era una situazione eccezionale. Quelli erano tempi duri, la guerra era finita da pochi anni e molte erano le famiglie che non riuscivano a far quadrare il bilancio o, come si direbbe oggi, ad arrivare a fine mese. Ma loro erano un'eccellenza nel novero dei lesti di mano. Questa attività di rubare negli orti si definiva come andare ad orti. Noi non andavamo ad orti perché avessimo fame o così, ma era un po' un divertimento. Ma forse ci mancava anche un po' della frutta alla fine dei pasti. Io non avevo nessun problema e così il mio amico, ma neanche tanto Bigio. Però si usava molto allora andare ad orti, era un po' un'avventura anche, eh? Era soprattutto direi un'avventura. Bigio me lo sono visto arrivare un giorno in quella viuzza. Lui era piccolo, scuro di carnagione, tarchiato, con il collo corto, una testa grande, un viso grinzoso, nonostante la giovane età. Aveva due occhi scuri che spesso avevano un alone rosso, simile a quello di chi ha dormito poco e male. Era molto sicuro di sé, ambizioso, intraprendente. Nel periodo in cui si andava a orti, sarebbe stato ben presto lui ad informarci che nell'orto dei F, assenti per due giorni, le ciliegie erano mature e che nel frutteto dei Valli, di lì a 15 giorni, sarebbero maturate le mele di un certo filare. Lui viveva ai margini di quel mio gruppo di amici, non giocava a pallone, non frequentava l'oratorio ed era spesso assente perché impegnato nel lavoro dei campi. Con noi c'era anche Lidia, una ragazza dai capelli castani, dal viso aperto, che oggi definiremo probabilmente sensuale. Esercitava una sorta di fascino su di noi, anche perché, e lo avremmo capito molto, molto tempo dopo, era più matura di noi, soprattutto quando si trattava di certe cose. La mamma di Lidia aveva un po', per non dire molto, trascurato la figlia. L'aveva lasciata dalla sorella a Castel Manfredi, mentre lei viveva a Milano con il marito, un signore ricco più anziano di lei. Quando veniva a trovare la figlia, era truccata ed ingioiellata come una gran signora. Bigio, a un certo punto, cominciò a frequentarci assiduamente e un giorno ci confidò che a lui Lidia piaceva. Quando lei venne a saperlo, disse che mai si sarebbe messa con lui. Questo rifiuto non fu sufficiente a far desistere Bigio, che quanto a testardaggine non era secondo nessuno. Anzi, quel diniego era una sfida al suo orgoglio ed un incentivo a continuare il corteggiamento. Fall is here, hear the yell, back to school, ring the bell, brand new shoes, walking blues, climb the fence, books and pens, I can tell that we are gonna be friends. And look at all the bugs we found. Safely walk to school without a sound. Safely walk to school without a sound. to school all by ourselves. There's dirt on our uniforms from chasing all the ants and worms. We clean up and now it's time to learn. We clean up and now it's time to learn. Dopo un po' di tempo, Lidia incontrò alla sagra di un paese vicino un giovane operaio. I due si innamorarono, si fidanzarono e si sposarono. Bigio era furioso e parlava con disprezzo di quel morto di fame, ora che lui aveva comprato un camioncino e faceva il trasportatore a Milano e si diceva che guadagnasse bene. Lui si era poi trasferito nella metropoli lombarda, dove si sarebbe sposato. Dopo un po', anche lei si trasferì a Milano col marito e con i figli. Aveva trovato un buon posto di lavoro presso un ufficio pubblico. Bigio aveva una rete di amici e di conoscenti a Castelmanfredi che lo informavano di tutto quanto venivano a conoscenza sulle vicende milanesi di Lidia. E quando si trattava di Lidia, lui non badava a spese. Passarono alcuni anni. Un giorno Bigio ricevette da un'amica di Castelmanfredi la notizia da tempo aspettata. Lidia era depressa a causa del marito che la lasciava sempre sola. L'amica gli disse anche che la domenica successiva Lidia sarebbe stata da lei per ricevere un po' di conforto. Lui non si lasciò sfuggire l'occasione. Si presentò nella casa dell'amica e per la prima volta lei dimostrò un'insperata disponibilità. Aveva confidato all'amica di essersi volta verso Bigio, non in cerca di una vita amorosa, ma di affetto e di dedizione. Questo è un personaggio molto sicuro di sé. Era piccoletto, con una testa un po' grande, era molto sicuro di sé, ambizioso, perché poi di fatti lui venne a Milano a fare il trasportatore, aveva una forza notevole e una capacità di lavoro veramente incredibile. Si frequentarono per parecchi mesi e poi decisero di andare a vivere insieme. A Bigio i soldi non mancavano. Affittò un bel appartamento e lo arredò senza guardare a spese. Venne il giorno fissato per dar corso all'accordo finalmente. Felice di realizzare il suo sogno, Bigio telefonò a Lidia. Quando lei gli disse che aveva pianto tutta la notte e non se la sentiva più di abbandonare i propri figli, lui fu assalito da un moto irrefrenabile di rabbia e la coprì di insulti. Gli anni successivi furono per Lidia molto tristi. Una brutta malattia se la portò via. Bigio, che tutti noi pensavamo l'avesse ormai dimenticata, sembrò impazzire. Qualcuno che lo conosceva bene disse che non era tanto il dolore di un innamorato quanto la rabbia di chi ritiene di avere subito un'insopportabile ed ingiusta privazione. Ogni settimana, per alcuni anni, le portò un mazzo di fiori al cimitero. Ai compleanni di lei, poi, la tomba era sempre sommersa di fiori, sempre. Continuavamo a chiederci cosa fosse veramente accaduto nella mente di Bigio. Forse, quando Lidia era viva, l'innamoramento di Bigio era una sorta di ostinato capriccio generato dal suo orgoglio ferito. Poi però ci parve più realistico pensare che la morte di Lidia avesse rivelato allo stesso Bigio quale profondità avessero raggiunto nel suo cuore le radici di quell'amore. Quella donna dava un senso alla sua vita, che ora n'era ormai priva. Qualcuno osservò: «È veramente innamorato». Da quando è morta. The book of love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it. When you read to me, and you can read me anything. The book of love has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental, some of it's just really dumb, but I love it when you sing to me, and you say me anything. Love is long and boring, and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes, and things we're all too young to know. But I love it when you to give me wedding rings, and I love it when you give me things, and you are to give me wedding. Si intitola la puntata di oggi Il numero perfetto, e l'abbiamo chiamata così perché anche la seconda storia avrà a che fare con una storia d'amore che prevede una coppia, come in tutte le storie d'amore, e poi in questo caso un terzo incomodo. E la storia di Francesco ci racconta proprio quello, racconta di una coppia che di fatto non diventa mai una coppia, cioè di Bigio e Lidia, perché è come se ci fosse sempre un terzo incomodo, che da una parte è un marito, dall'altra la moglie, o semplicemente il terzo incomodo è la mancanza d'amore. Pronto, ciao Francesco, buongiorno. Ciao. Senti Francesco, buona giornata. So che questa storia risale a tantissimi anni fa e a te è stata raccontata, dico bene? In parte è stata raccontata, ma diciamo che la mia conoscenza di Bigio è stata una conoscenza di prima mano, nel senso che ho passato alcuni anni della mia fanciullezza in una stradina di questo paese di Castel Manfredi, dove c'era anche Bigio oltre a altri ragazzi, e dove c'era anche Lidia. Ah. E quindi ci siamo conosciuti lì e abbiamo condiviso alcuni anni, dopodiché le nostre strade si sono divise, ma io mi sono spostato a Milano, ma avendo due sorelle in questo paese, sì, Castel Manfredi, periodicamente andavo giù e vado sempre giù, e lì ho i miei amici del cuore. Ah, ok. Quindi è proprio di fatto tu hai ricordi sia di Bigio sia di Lidia? Assolutamente. Bigio sono andato a trovarlo più di una volta, e poi lo seguivo anche da lontano, parlando con degli amici comuni. Chiaro. Che ne seguivano passo passo la storia, e tuttora qualche volta vado a trovarlo. Ah, perché lui è ancora vivo, Bigio? Lui è ancora vivo, e anzi ha una aziendina, niente male, a Castel Manfredi, una bella industria che gestisce con i due figli. Ma senti, ma quando dici in chiusura di storia, tu Francesco dici qualcuno sostiene è veramente innamorata da quando lei non c'è più, che cosa intendono secondo te? Sembra che prima ci fosse una componente di orgoglio personale di questa ragazza, che poi è diventata una signora, che era un orgoglio suo, dato che lui era molto acquisitivo, molto ambizioso. Mm-hmm. E il fatto di aver ricevuto questo diniego un po' tutta la vita ne ha sollecitato l'orgoglio, ma poi quando muore capisce che senza di lei lui è un altro e non ha più senso la sua vita. Ah, ok. Cioè, come se realizzasse, si rende conto che quando muore si rende conto della realtà, forse, che non gli era disvelata prima. Francesco, tu sei in pensione o lavori ancora? Sì, no, io sono in pensione. Che cosa hai fatto nella tua vita? Ma nella mia vita mi sono laureato in Bocconi e poi ho fatto in dirigente in un'industria internazionale nel settore petrolifero. Ho smesso di lavorare. Te la godi la pensione oppure sei uno di quelli che... Sì, me la godo. Se non ci fosse mia moglie che ogni tanto mi fa arrabbiare, adesso è qui davanti a me e mi tira un cuscinetto. Senti, però invece... sai come sono le mogli oggi, no? Ma credo che lei dirà la stessa cosa di te probabilmente, eh? Sai come sono i mariti oggi? Sì, sì, ma lei ha tutta una narrativa, uno storytelling suo personale che mi sommerge. Senti Francesco, invece, e poi ti lascio, è un po' d'obbligo in questo periodo, come la stai, come la state vivendo tua moglie? Siete in casa, riuscite a... Vabbè, certo, noi siamo in casa e mia moglie oggi piangeva perché dice qui non ne usciamo più, quindi ogni tanto ha questi accessi di pianto, che però siccome è una persona molto matura, supera. Tu come la vedi? Tu come la vedi? Passerà, ovviamente. Spero di sì, spero di riuscire anch'io a superarla, perché penso che prima o poi se ne uscirà con forza, dei grossi problemi, certo, da un punto di vista economico, soprattutto lavorativo. Sicuramente. E sperando nell'accordo dell'Europa e di questi paesi del nord, molto più ricchi e molto più bravi di noi, speriamo che ci aiutino, perché senza il loro aiuto sarà molto dura. Francesco, io ti ringrazio molto per la storia che ci hai mandato e anche per questa chiacchierata finale. State chiusi in casa come stiamo facendo tutti e passerà. Certo. Grazie davvero, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi. Ciao Francesco, ciao. A presto. Decided on a killing. First you make a stone of your heart, and if you find that your hands are still willing, then you can turn a murder into art. There really isn't any need for bloodshed. You just do it with a little more finesse. If you can slip a tablet into someone's coffin, then it avoids an awful lot of mess. Because it's murder by numbers. 1, 2, 3. It's as easy to learn as your ABC. It's murder by numbers. 1, 2, 3. It's as easy to learn as your ABC. Il numero perfetto si intitola la puntata di oggi e più o meno avete capito il motivo per cui l'abbiamo intitolata così: la storia di Francesco, di Bigio e Lidia e soprattutto di quel terzo incomodo che ha impedito in qualche modo ai due di amarsi. Poi forse il terzo incomodo in questo caso era semplicemente il fatto che lei non era innamorata di lui, ahimè, come delle volte purtroppo succede. Ora ci ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo qui con un'altra storia che riguarda il numero perfetto, riguarda un terzo incomodo e, come dicevo in apertura, sembra quasi un thriller. Linee d'ombra. La puntata di oggi si intitola Il numero perfetto e dopo la storia di Bigio e di Lidia, ora ce n'è un'altra che racconta di un amore separato da migliaia di chilometri e da tonnellate di burocrazia. Questa storia inizia così. Dopo anni in cui ho evitato l'amore come la peste, avevo finalmente fatto l'incontro perfetto. Per questo avevo deciso di sposarmi e per farlo avevo scelto un matrimonio in chiesa, in Italia. Inizia così la storia di Annalisa Merelli, una giornalista di Bergamo che vive tra Parigi e Delhi e lavora per una rivista americana. Questa è la sua storia. State con noi. Prima di sposarci avremmo dovuto districare l'intricata matassa delle nostre identità. Io sono italiana, ma lavoro negli Stati Uniti e al momento sono residente a Delhi, in India. In compenso, il mio fidanzato è canadese e residente in Canada, anche se vive in India con me. Io sono cattolica, lui è ebreo. Dal Canada ci serviva un certificato che dichiarasse che lui non era mai stato sposato prima e quindi cercare un certificato dell'ambasciata canadese di Delhi per un matrimonio da fare in Italia. Insomma, la cosa non era facile. Dopo 4 mesi ancora non avevamo ottenuto nulla. Nel frattempo avevamo prenotato il ristorante, una villa da fiaba sulla costiera amalfitana. Io ho scelto il vestito e gli amici da invitare. Avevamo perfino fatto un corso prematrimoniale, obbligatorio per sposarsi in chiesa, come io avrei voluto. L'avevamo fatto alla periferia di Delhi. Per 2 giorni siamo stati in un convento con altre coppie, dormendo su piani diversi, gli uomini al primo piano, le donne al piano terra, e frequentando le lezioni sui doveri coniugali. Insomma, stava funzionando tutto. Solo la data delle nozze restava un'incognita. Avevamo bisogno dei documenti e non sapevamo come ottenerli. Io cominciai a demoralizzarmi, a pensare di avere sbagliato, che questa cosa del matrimonio semplicemente non fosse una buona idea. Al solito a consolarmi furono le sue parole, che avrebbero illuminato le stanze più della mia anima. Sposarsi è la migliore idea che abbiamo mai avuto e lo faremo, mi disse. Andrà tutto bene, te lo prometto. Prima di trasferirci in India, il nostro era il classico rapporto di 2 persone che non sembravano mai essere nello stesso posto. Ci siamo conosciuti in Italia, ci siamo innamorati e abbiamo passato l'estate insieme. Ma dopo l'estate lui era partito per un progetto fotografico, prima in Alaska, poi in Giappone e poi in Congo. Io nel frattempo ero finita in Kosovo a fare volontariato e poi a Parigi per completare un master. Lui mi raggiunse là, in Francia, e lì abbiamo trascorso un paio di mesi insieme. Il periodo a Parigi è stato fantastico. Vivevamo in una stanza studio troppo piccola per una persona sola, figurarsi per 2. Facevamo vita da bohemien e stavamo sempre insieme. Per la prima volta con lui mi sentivo bella, amata, desiderata. Quando dovette trasferirsi in India, scelsi di raggiungerlo per un periodo. Il primo impatto là non è stato facile. Tutto in India mi ha spaventato: l'odore, i rumori, la luce, così diversa da tutto quello che avevo visto prima nella mia vita. Persino i pavoni che volavano sulla terrazza erano meravigliosi, ma vagamente minacciosi. A Calcutta soffrivo per la povertà e per la sporcizia. Una volta ho pianto per tutta la notte per non potermi permettere niente di meglio di una pensione sporca. Quella volta tornai a Parigi sollevata, ma un anno dopo mi sono trasferita definitivamente con lui a Delhi. Abbiamo preso un appartamento, l'abbiamo decorato con tessuti colorati. Ora che finalmente potevamo stare insieme, lui viaggiava così tanto per lavoro in Africa, in Cina e dovunque che io mi ritrovavo spesso da sola in India. Mi pareva in preda a una voglia di viaggiare che io non riuscivo a capire. Fu un periodo molto difficile. Minacciai di andarmene e di tornare in Europa per sempre, ma sapevo che non volevo andarmene davvero. Fu al colmo di una crisi che lui mi disse di restare per sempre insieme. Vidi nei suoi occhi qualcosa che non avevo mai visto prima. «Allora, vuoi sposarmi?» mi chiese. Poi allungò la mano verso il suo zaino e tirò fuori una piccola scatola. «Ho anche un anello», mi disse. Io lo amavo, e l'inaspettata certezza che anche lui mi amasse, sinceramente, mi diede una felicità così grande da spaventarmi. Quando mancava ormai poco tempo al matrimonio, dovette tornare in Canada per rinnovare il visto. Quel viaggio aveva svuotato il mio conto, ma sulla strada di casa era riuscito ad incastrare un lavoretto per cui presto sarebbe stato ben pagato. Per la prima volta nei nostri numerosi saluti, non piansi quando partì. Doveva stare via per qualche settimana e abbiamo ripreso la nostra vecchia abitudine di lunghe telefonate a grandissime distanze. Ma poi, proprio il giorno in cui avrebbe dovuto andare a ritirare i certificati necessari per il matrimonio, non riuscimmo a sentirci. Il suo telefono non prendeva e non era raggiungibile nemmeno online. Dal momento che era sempre costantemente connesso, c'era qualcosa di strano in quel silenzio. It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares baby, I think I wanna marry you. Well I know this little chapel, Boulevard, we can go. it's just one girl. If we wake up and you wanna break up, that's cool. No, I won't blame you. It was fun, girl. Don't say no, no, no, no, no. Just say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And we'll go, go, go, go, go. If you're ready, like I'm ready. Cause it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes? Or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Just say. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Erano passate soltanto poche ore da quando l'avevo sentito l'ultima volta, ma quel silenzio mi pareva molto strano. Iniziai a preoccuparmi. Per un giorno non ricevetti notizie, e poi arrivò una mail che mi dà gelò il sangue. In due righe diceva che mi amava e che aveva bisogno di spazio. I giorni seguenti furono lunghissimi. Passavo il tempo a controllare compulsivamente telefono e email. Fissavo lo schermo per vedere se si collegava su Skype, ma non ebbi nessun segnale da lui, niente. Mi convinsi di non provare a contattarlo. Mi convinsi che se lui aveva sentito davvero il bisogno di essere lasciato in pace, avremmo potuto rimandarlo al matrimonio. All'avvicinarsi della data del suo viaggio di ritorno, io cercai di restare calma e concentrarmi sul fatto che stavo per vederlo di nuovo, finalmente. Non eravamo mai stati senza sentirci così a lungo e lui mi mancava terribilmente. Ho cercato di essere paziente, ma quando ho visto il suo nome andare online su Skype, non ho potuto resistere. Amore mio, ho digitato, sono così felice che tornerai la prossima settimana. Sì, rispose, le cose andranno bene. Ma subito dopo mi disse che non sarebbe tornato e chiuse la conversazione. Gli scrissi che mi doveva una spiegazione. Lui mi rispose solo che sarebbe tornato presto online. E così fece. Sei così bella, disse dolcemente quando richiamò. Mi sei mancata. Poi però disse che eravamo semplicemente troppo diversi. Lui doveva essere libero di viaggiare e di lavorare e io volevo la sicurezza. Mentre parlava, sempre con un tono molto gentile, le sue parole iniziarono a perdere significato per me. Mi hai tradito, dissi. E non era una domanda la mia, era una certezza. Sì, rispose. Il ricordo del tradimento era sepolto nell'illusione della storia più meravigliosa che mi fosse mai capitata. Io avevo scoperto le sue infedeltà prima di trasferirmi in India, quando vivevamo separati, infedeltà e bugie. Mi aveva pregato di stare con lui quando l'avevo scoperto. Avevo lavorato così duramente per superare le sue infedeltà che l'avevo effettivamente dimenticata. Ma ora era tornata a farsi sentire come un fuoco sullo sterno. Mi disse che l'aveva appena incontrata. Qualche giorno era stato abbastanza per sapere. Stavano per viaggiare insieme, vedere il mondo ed essere nomadi, come lui voleva. Si stava trasferendo da lei. La conversazione è andata avanti tutta la notte, attraverso attacchi di rabbia, lacrime, parole d'amore. Disse di non essere più innamorato di me e forse di non esserlo mai stato davvero. Fuori si era fatta l'alba. I suoni dell'India che si risvegliavano erano un segnale forte che la conversazione doveva finire. Mi mancherai tanto, mormorai prima di riattaccare. Tornai in Italia, a casa, ero un fantasma, non mangiavo da giorni. Non avevo sentimenti diversi dal dolore. Quando vidi mia sorella all'aeroporto, senza dire una parola piansi. Piansi anche quando vidi mia madre. Perfino mia nonna, che di solito mi bastava vederla per essere di buon umore, non riuscì a farmi smettere di piangere. Mi dispiaceva essermi fidata di lui, di averlo seguito, di averlo portato a casa. Mi dispiaceva di essere così affranta. Mi dispiaceva non solo che avesse mentito a me, ma anche alla mia famiglia. E mi dispiaceva per l'imbarazzo di un matrimonio da cancellare. Quando finalmente trovai la forza, tornai a Delhi, lasciando la mia famiglia preoccupata per me. Ero a pezzi ma decisa a salvare il salvabile. Un lavoro che amavo, in un paese che mi avrebbe salvato la vita. Scoprì che era troppo occupato con la sua nuova vita, lui, persino per dire ai suoi amici e alla sua famiglia che non ci saremmo più sposati. In tutto questo, e nonostante il mio io razionale, io lo amavo ancora follemente. E quindi ho fatto l'unica cosa che potevo. Ho messo un giorno davanti all'altro, aspettando che il mio amore sparisse. Adottai un esercizio quotidiano di astinenza, dal chiamarlo, dal volerlo, dall'amarlo. Prima che me ne accorgessi era passato un mese, poi due, poi un'intera estate. Il 26 agosto, il giorno in cui avremmo dovuto sposarci, invece di essere al sole della costiera amalfitana, trascorsi la giornata nella piovosa Kathmandu, in Nepal, da sola, al tempio di Shiva, il dio della distruzione. Per un po' sono rimasta schiacciata da questa storia. Ero ossessionata dalle sue bugie. Poi, man mano che ho fatto chiarezza, il dolore ha lasciato il posto al sollievo. Come ultimo gesto ho scritto alla donna che lui aveva lasciato per stare con me. Volevo farle sapere com'era andata. Non so perché, ma sentivo che era giusto. Sentivo che se fossi stata in lei, avrei voluto sapere. Lei sapeva fin troppo bene cosa stavo passando e continuava a ripetermi che avevo perso qualcuno che non valeva la pena tenere. Anni dopo, è quello che ho detto io a sua moglie, quando è stata lei a scrivermi. Questa storia è una storia che abbiamo trovato su Narratively, che è appunto un sito di storie, e l'ha raccontata e l'ha vissuta Annalisa Merelli, che è una giornalista e autrice italiana che appunto in questo momento vive negli Stati Uniti. Se avete voglia di ascoltarla, se avete voglia di risentirla, potete rifarlo in podcast subito dopo la fine di questa puntata. Ora ascoltate Le strade in diretta, poi torniamo qui con i vostri diari dalla quarantena. Linee d'ombra. Ci sono persone che tengono un diario da sempre, ci sono persone che anche se poi non diventano scrittori, anche se poi non usano quelle pagine di diario per nulla, semplicemente giorno dopo giorno si mettono lì e quasi come una pratica religiosa scrivono il loro diario. Ecco, noi vi abbiamo chiesto di farlo non tutti i giorni, non vi abbiamo imposto o richiesto assolutamente nulla, però vi abbiamo detto se avete voglia di raccontarci come state passando queste giornate di quarantena, di solitudine o comunque sia di grande cambiamento delle nostre vite, fategelo e mandateci una paginetta a linee d'ombra@radio24.it. Abbiamo scoperto come si vive in una farmacia, abbiamo scoperto come vive un insegnante che fa lezione da casa con i suoi allievi, abbiamo scoperto come si sta da amanti, da fidanzati lontani in una situazione come questa. Oggi cerchiamo di capire come si sta da studenti universitari. Siamo quasi alla terza settimana. Dal 21 febbraio ci siamo resi conto che può succedere. Sì, può colpire anche noi. Ma come? Siamo dalla parte opposta del pianeta. Vuoi dirmi che ha attraversato un continente e mezzo, liscio come l'olio, e ci ha colpito qua? Boh, sì. Non si capisce, ma sì. Il tempo mi sembra fermo ormai, le ore si consumano sotto i miei occhi. Provo a fermarle alzando lo sguardo e puntando l'orologio spesso, ma mi dà l'impressione contraria. Dopo quasi 3 settimane siamo a casa, anche qua, in Trentino, dove mi sentivo protetto dalle montagne, e forse anche perché sono lontano da casa mia, che è Mestre. Le prime 2 settimane del virus sono state intense, e già dopo i primi 5 giorni lavorativi di notizie sul Covid-19, già ne avevamo le palle piene. Volevamo tornare allo svago, cambiare, passare da un argomento pesante a uno più leggero. Tanto la scuola e le università erano chiuse per pochi giorni. Insomma, si fa festa. Si può uscire, no? Non si sentiva il peso. Alcuni comportamenti guidati da eccessiva prudenza o isteria traumatica ci avevano però sorpreso. Li abbiamo presi in giro perché sugli scaffali avevano lasciato le rotelle. Ma chi le mangia, le rotelle? Abbiamo dovuto calmare i toni. Ma che è cambiato? Il virus? Ma gli ospedali sono pieni e adesso il mio esame di diritto romano è stato rimandato per la seconda volta. È marzo, è già il 4, eravamo appena tornati a lezione. Badate che, come qui scritto, chi tossisce sarà allontanato dall'aula, ci avvisa la professoressa con tono serio. Appunto, non ci credeva manco lei. Invece è stata chiusa e ho rimandato il mio esame. Il mio incontro per convertire gli esami che ho sostenuto in Erasmus e l'appuntamento dal dentista perché, sai, si trova in una zona che sembra si debba chiamare zona rossa. Non ho capito bene che cosa sia accaduto. Le notizie trapelano, ma non c'è tutto il resto. Come faccio a capire? Una mia cara amica deve scappare da Trento. Era passata per il via, ma la situazione è strana. Si pensa chiudano delle province. Ma come si può chiudere una provincia? Cos'è? E torna a casa, lei, dove sarà più sicura. Oggi è di nuovo lunedì. Mi ha consolato, si è arrivata una mail, dice che alcuni corsi saranno organizzati online. Devo entrare in una piattaforma online, scaricare 2 applicazioni, firmare con la firma digitale, poi... Boh, ma secondo te me le ricordo queste cose? Vabbè, intanto mi sento chiuso, tanto chiuso, quando invece fino a un mese fa mi sembrava di respirare una libertà di livello diverso, europea, ancora più grande di qualsiasi potessi provare in Italia. Perché mi sento parte di un progetto più grande, sempre mi ci sono sentito. L'augurio che ho dato a me stesso per quando sarei tornato a casa è stato: porta con te questa energia che ti rende libero. Spero presto di tornare di nuovo, quello di una volta. Andiamo verso la fine anche di questa storia seriale. È la 7ª storia seriale che vi stiamo raccontando, è l'ultima legata ai vizi capitali, poi continueranno, ma avranno a che fare con i passaggi, con le linee d'ombra, con tutte le storie che vi stiamo raccontando ormai da un mese a questa parte. Mauro Pescio è andato da Anna Maria, che ci aveva scritto, e ci voleva raccontare come cercare la perfezione e cercare la perfezione attraverso il non mangiare il cibo può a che fare in realtà con il cercare la distruzione.